Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Vedo l'Italia di spaghetti al dente, è un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Vedo l'Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con l'amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Un italiano vero.